Buon pomeriggio, siamo al telefono con Aurora Borealo. Intanto grazie mille della disponibilità, è un vero onore oltre che piacere. Ciao, buongiorno, grazie a te. Allora, noi ti abbiamo chiamato perché il 27 ottobre sarai a Bologna al Locomotive con uno show, uno spettacolo, perché non è un concerto, si chiama Libri Brutti. Ecco, di cosa si tratta? Ma Libri Brutti è una pagina che è nata 6-7 anni fa, nel 2018, in realtà da una mia collezione che ho da molto più tempo di libri brutti. Io ho sempre avuto la passione per questi libri assurdi che in qualche modo a metà tra il kitsch, il trash, ma che in realtà ci rivelano molto della nostra società, e li ho sempre collezionati. A un certo punto ci ho fatto una pagina, questa pagina Instagram è cresciuta molto, in questo momento siamo a 100.000 follower, il che te la dice lunga sullo stato dell'editoria italiana, e da questa pagina è venuto naturale, insomma, raccontare i libri in maniera un po' più approfondita, e quindi è diventato un podcast. Il podcast è andato molto bene, ho scritto un libro, questo è sempre assurdo perché, capito, tutto parlando di libri brutti, e questo libro è uscito per Black Edizioni e ho portato in live tante volte sia il podcast che anche uno spettacolo in cui leggo i libri brutti più assurdi, e quest'anno ho pensato che ci fosse bisogno di un nuovo spettacolo sui libri brutti, perché mi sono reso conto che in realtà i libri brutti sono una cosa collettiva, cioè tutti abbiamo in casa dei libri brutti, che poi siano considerati brutti dagli altri ma bellissimi ai nostri occhi o viceversa, tutti abbiamo dei libri che in qualche modo a un certo punto sono stati scartati o di cui ci vergogniamo o di cui non dovremmo vergognarci. Ecco, i libri brutti sono secondo me un rito collettivo di capire chi siamo, perché ci parlano della nostra società in maniera molto più spietata e precisa che non i libri belli che ci piace esporre sulla nostra Kallax o sul nostro Billy dell'Ikea, capito? E quindi in questo spettacolo nuovo si chiama proprio I peggiori libri della nostra vita, perché all'interno farò diciamo, c'è una parte in cui racconto alcuni libri, alcuni casi editoriali assurdi e che fanno molto ridere, ovviamente inediti rispetto al podcast e rispetto al libro, e in un'altra parte invece io ho chiesto a tutto il pubblico di portare dei libri brutti da casa e vado in mezzo al pubblico e magari ne selezioniamo qualcuno e ne leggiamo qualche pezzone, quindi c'è anche una parte improvvisata e interattiva. Scusa, l'asciugo, sono stato molto lungo. Mi stavo giusto chiedendo questo, se appunto il pubblico magari può portare dei libri, quindi è molto interessante, perché è vero che ognuno di noi ha dei libri magari orribili, nascosti o comunque che sono orridi, potrebbe essere l'occasione per ritirarli fuori dal cassetto, chissà. Esatto, per dar loro una nuova vita, anche perché molto spesso sono libri invecchiati male, più che altro, no? E quindi l'effetto comico è il fatto che magari noi abbiamo comprato quei libri che all'epoca ci piacevano, che siano manuali, che siano romanzi da titoli, diciamo, acchiappa attenzione, no? Ci sono tante variabili sui cosiddetti libri brutti, che poi in realtà appunto per me sono bellissimi tutti, però sì, tutti ce li abbiamo, e quindi diciamo, io mi immagino proprio una specie di come dire, rito collettivo per ridere su noi stessi e sulla nostra società. Non a caso mi sono inventato anche un piccolo gadget molto bello per chi porta dei libri brutti da casa. Ho creato questo segnalibro, che è anche un fermaporta, sai quando tipo metti i segnali non disturbare fuori dall'hotel? Okay. E allora ho fatto questo segnalibro con scritto non rompetemi il puntini puntini, sto leggendo un libro brutto, e quindi lo regalo a tutte le persone che porteranno un libro brutto da casa partecipando allo spettacolo. Ecco, perfetto. Tu, oltre, dicevamo anche, no, cose invecchiate male. A proposito di cose invecchiate male, tu hai anche una pagina che si occupa di canzoni improbabili che non verrebbero più pubblicate, più ascoltate in questo momento. Ecco, libri brutti, canzoni improbabili. Tu hai un po' il gusto del celebrare in qualche modo la bruttezza e l'orrido, no? E come mai questa modalità? Cosa significa per te e cosa può significare portare in scena cose così anche un po' assurde? Ma principalmente perché nelle cose appunto considerate brutte ci sono delle storie da raccontare che molto spesso appunto sono storie che altrimenti nessuno racconterebbe, a volte per fortuna, a volte purtroppo, però in realtà sono storie che fanno parte della nostra società. Esempio, parlando di musica brutta, che in realtà è questo sito che si chiama Orrore a 33 giri, che pensa tu, adesso a febbraio 2026 compie 20 anni di presenza e ci sono pagine Wikipedia che ci citano come fonti di molti articoli. Per esempio, il disco in giapponese di Alessandra Mussolini, pubblicato nel 1982, è una cosa talmente assurda che non può non essere raccontata, il fatto che lei appena ventenne abbia inciso un disco cantato in giapponese solo per il mercato giapponese, prodotto da maestri dell'arrangiamento giapponese e con metà testi cantati proprio da lei in giapponese e l'altra metà cantati in italiano, scritti da Malgioglio. Quindi questa cosa, come dire, è comunque lo specchio di un'epoca, anche in queste, come dire, in questi cortocircuiti, no, culturali che succedono spesso. Quindi in realtà la cosa principale che a me piace è raccontare storie che tendenzialmente nessun altro racconta, perché la cultura arriva dai posti più impensati, non è detto che arrivi solo dalla cultura alta. Voglio dire, Frank Zappa ha costruito una carriera sul mescolare la cultura alta e la cultura bassa, quindi a me interessa proprio raccontare storie che nessun altro racconta e che possono dirti qualcosa al di là della semplice risata di quando guardi un video su YouTube o su TikTok o su Instagram. Mamma mia, questa della Mussolini è veramente una chicca non da poco, ma direi che non la facciamo ascoltare qui in radio per salvare le orecchie agli ascoltatori. In realtà tu non ci crederesti, ma è un bel prodotto di city pop giapponese, nel senso che è stato prodotto e arrangiato da questo Miki Curtis, che è un signore anzianissimo, ancora vivo tra l'altro, che ha portato, pensa, negli anni 60 il surf rock psichedelico e l'ha portato in Giappone, è stato lui il primo, quindi è uno che poi negli anni 80, insomma, si è riciclato. È chiaro che arriva la nipote di Sofia Loren, che cioè, capito, è naturale che, insomma, dobbiamo campare tutti, però in realtà musicalmente, se tu dimentichi che è la Mussolini, il disco è assolutamente valido. E invece il libro più strano che ti viene in mente o più particolare che porterà in scena o che magari hai presentato in Libri Brutti, così qual è? Allora, c'è un libro leggendario per me, di cui la coesistenza è assolutamente un mistero, quasi come i misteri che piacevano che piaceva mantenere all'autore, cioè questo libro di poesie scritte da Licio Gelli, tradotte in cinese. Allora, Licio Gelli, che ricordo era il diciamo la mente, il capo della P2 e che quindi, insomma, autore di Efferati crimini, eppure per riabilitarsi negli anni 90 dopo lo scandalo ha cominciato a tirare fuori tutte queste poesie che lui scriveva dagli anni 50. Esiste questo volume gigante che io ho trovato online, una copia sola, poi non so più, non so niente, perché poi è tutto scritto in cinese, di sue poesie super romantiche, super epiche, super liriche, tradotte in cinese per il mercato cinese, per nessun motivo. Ed è bellissimo perché è proprio un volumone, capito, rilegato con i bordini dorati, c'è, cioè, una cosa proprio super lusso. Ed è stupendo anche perché poi dietro a molti di questi racconto anche le storie, cioè pochi sanno che lui, grazie a queste poesie, che ha pubblicato circa 2500 poesie spalmate su 40 volumi, ha ricevuto diciamo lettere di consiglio autorevoli per vincere il Nobel per la letteratura, cosa che ovviamente non ha vinto, però ha ricevuto le lettere autorevoli, la commissione ha ricevuto lettere autorevoli per supportare la sua, diciamo, candidatura, e tra queste lettere autorevoli c'era anche una lettera di Madre Teresa di Calcutta. È veramente un viaggio che poi, appunto, il 27 ottobre al Locomotive, a sto punto è un po' uno spettacolo di Barbero di Aurora, sì, Borealo, cioè la, sì, storia attraverso i libri. Oltre brutti, assurdi, perché queste sono, sì, veramente storie incredibili. Sì, a me piace immaginare che sarà una specie di Barbero misto indagini di nazi, ma sui libri brutti. E ovviamente il tutto ha una componente assolutamente ridicola, quindi siamo borderline con la stand-up comedy, diciamo, ecco. Passando invece alla tua musica, tu hai deciso di mettere online in maniera gratuita, fruibile da tutti, i tuoi brani, le tue canzoni. Ecco, cosa significa questo? Perché magari molti di noi dicono, beh, io lo ascolto già gratis su YouTube, volendo, Aurora Borealo, ma cosa significa in termini più pratici mettere il catalogo gratis online? Ma è un momento storico in cui le piattaforme di streaming non godono di buona salute. Io ho fatto una scelta etica personale di rimuovere qualche mese fa tutta la mia musica da Spotify, dopo aver appreso che il fondatore e attuale amministratore delegato Daniel Ek aveva investito 700 milioni di dollari in una startup tedesca che produce droni militari che vengono già utilizzati in guerra. E quindi ho rimosso tutta la mia musica da Spotify, per ora solo su Spotify, mantenendo sulle altre piattaforme. In realtà, se uno vuole fare un po', no, la punta alle matite, diciamo che il sistema dello streaming, delle piattaforme di streaming, sta un po' cominciando a crollare, soprattutto considerando anche non solo non solo, come dire, la bassa quantità di introiti che arrivano direttamente all'artista, ma anche considerando appunto il coinvolgimento di molte di queste aziende in cose poco etiche, o almeno per me, ma basta vedere anche cosa è successo con Jimmy Kimmel. Insomma, cioè è un momento storico in cui qualcuno ritiene necessario il boicottaggio. Io più che boicottaggio ho fatto una scelta etica mia personale che però a quanto pare ha guidato in piccola parte alcune cose, perché quando mi sono tolto da Spotify mi sono arrivati tantissimi screenshot di utenti che toglievano il loro abbonamento, quindi devo avere evidentemente centrato uno zeitgeist, uno spirito del tempo. Quindi in qualche modo mettere la mia musica a disposizione su Bandcamp in una formula che in realtà è gratuita, ma è anche offerta libera. Quindi vuol dire che chiunque può dare quanto ritiene opportuno per la mia musica, che va da appunto zero a quanto si vuole. Mi sembrava la formula migliore per dare il controllo e la consapevolezza dell'ascolto, allo stesso tempo ai musicisti, ma anche a chi fruisce di questa musica. Quindi ecco, diciamo, non ho assolutamente alcuna velleità di guidare niente, ma è stata una mia scelta etica personale che ho comunicato in maniera trasparente a chi mi ascolta. Ecco, io la vedo così, insomma. Beh, mi sembra comunque una scelta coraggiosa e, insomma, visto il periodo storico, appunto, prese di posizione sono sempre molto importanti. E guarda, io ti ringrazio tantissimo per la bella chiacchierata. Ricordiamo appuntamento 27 ottobre Locomotive Club, Aurora Borealo, nello spettacolo su Libri Brutti, anzi, i peggiori libri della nostra vita. Esatto, sì. Aurora, il titolo lungo è Aurora Borealo legge libri brutti, i peggiori libri della nostra vita. È più lungo a leggerlo che a farlo. Vedremo un po', è stato molto interessante, quindi io credo che se qualcuno che all'ascolto starà già prendendo i biglietti per la serata, ti chiedo per salutarci magari un invito appunto a chi ci ascolta per lo spettacolo e un brano dei tuoi per chiudere l'intervista. Allora, innanzitutto vi ringrazio per lo spazio e ringrazio chiunque vorrà venire a vedere lo spettacolo sui Libri Brutti, perché è assolutamente una cosa catartica, perché ci permette di ridere di noi. Il brano invece suggerirei Brutto dappertutto, che è un po', secondo me, una summa, un resoconto della nostra vita in questo momento, in questa società, della vita di tutti. Bene, perfetto. Allora ci ascoltiamo brutto dappertutto e appuntamento il 27 ottobre. Grazie mille. Grazie a te, ciao!